Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda la borsa, lo spread, i titoli, l'euro, devo dire che per ora si sta confermando un'altra settimana positiva, mezzo punto percentuale di rialzo a Milano, meglio di Parigi che fa più 0,15, di Francoforte che fa meno 0,15, e di Londra che fa meno 0,20, ma anche meglio dell'America che guadagna lo 0,20%. L'euro è a quota 1,3260, quindi in rafforzamento. Bene da noi Unicredit, più 4,90, Telecom Italia più 3,40, Mediolanum più 2,20, Intesa più 1,50, Lottomatica pure, Buzzi Unicem più 1%. Chi perde? In pregilo il 5%, Salvatore Ferragamo il 2,5%, ST Microelectronics l'1,80, Atlantia l'1,60, Finmeccanica meno 1,5, Pirelli meno 1,3. Come generali, migliori e peggiori, abbiamo un andamento opposto a ieri su Fondiaria Unipol, Fondiaria 6 e Unipol e anche Premafin. Ieri una corsa, un botto, oggi l'esatto opposto, meno 23% sulle ordinarie Fondiaria 6, meno 12% Premafin, meno 15% Unipol. Non so, sono movimenti un po' strani, più 30, più 20 ieri, meno 20, meno 15 oggi, chissà se si accenderà il cosiddetto faro della Consob, non lo so. Andiamo avanti, per quello che riguarda i temi di oggi, ancora tiene banco la polemica sulla riforma del mercato del lavoro, ce ne occuperemo in realtà dopo le 18, le 18.05, perché? Perché oltre ai temi ancora si è capito qualcosa, si è capito che il ministro Fornero vuole omogeneizzare, rendere più omogenee le varie forme, contrattuali. Sull'articolo 18 oggi ci sono alcune dichiarazioni un po' divergenti. Una è quella del Wall Street Journal, l'altra è quella dell'OCSE. Il Wall Street Journal ha detto: attenzione, la più grande minaccia alla crescita economica italiana non è il debito pubblico, ma l'articolo 18. Che sostanzialmente è un relitto degli anni 70 che rende impossibile licenziare anche il più incompetente dei dipendenti e che in modo perverso causa ciò che dovrebbe prevenire, la disoccupazione. Così il Wall Street Journal oggi, che conclude dicendo: a causa di questa norma l'Italia è diventata il secondo peggior paese in cui fare impresa e investire dopo la Grecia. L'OCSE però, che è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il cui segretario generale Gurria è in questi giorni in Italia, ha detto: attenzione, la riforma del mercato del lavoro non è solo l'articolo 18, che non è il punto fondamentale. Si parla di flessibilità, ma anche di reti di protezione per chi oggi non ce l'ha e di reinserimento nel mercato del lavoro. Parleremo di questo alle 18.05, ma parleremo anche di un governo che, a mio personale modestissimo avviso, sta parlando un po' troppo. Non è solo sui contenuti, uno può discutere, ma sull'opportunità di parlare e poi dando sempre ai giovani un po' degli sfigati, un po' dei mammoni, un po' dei monotoni, insomma avere sempre questo atteggiamento nei confronti dei giovani, che secondo me sono più i giovani che hanno conosciuto i professori in università che i giovani che noi vediamo venire qua a fare anche degli stage. Cioè, mi sembra che e poi questo attacco continuo al posto fisso. Nessuno dice che il posto fisso sia il futuro, ma anche continuare a dire che il posto fisso non ha più senso, ma da questo punto di vista c'è un rischio boomerang nella comunicazione del governo. Il ministro Cancellieri oggi ha chiesto scusa se ho offeso qualche giovane, ma il punto vero secondo me è che il ministro degli interni non deve parlare, a meno che non sia di riforma del mercato del lavoro, deve parlare di 'ndrangheta, di camorra, di mafia, di ricatto alle imprese, di racket, di quant'altro, di iniziative a favore delle imprese, di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dell'usura, ma non del mercato del lavoro. Già parla, e non poco, il ministro Fornero e anche il Presidente del Consiglio. Lo spread adesso ve lo do, è sceso anche sotto quota 300, così cambiamo tema, 370 punti, è sceso a 368 punti e fino a 367 punti. Bene, quindi l'andamento dello spread. Subito le altre notizie in breve, l'apertura sarà sulla Grecia, poi ci occuperemo del gioco, non solo per il bilancio della Sisal, ma anche per l'allarme di molti parroci. Parroci che dicono attenzione, con le nuove norme stiamo creando dei ludopatici, dei dipendenti da gioco, e poi chiaramente la riforma del mercato del lavoro e le numerosi interventi, li metteremo tutti quanti in fila, di esponenti del governo su questo tema. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro in rialzo a $1,727 l'oncia, petrolio ancora in calo $96 a New York, matrimonio tra colossi, $90 miliardi vale infatti il nuovo gigante minerario, praticamente che è il risultato della fusione tra Glencore e Xstrata. Sono due dei colossi nel settore minerario, si mettono assieme e assieme il gruppo vale $90 miliardi. Nel frattempo, sul fronte energia, ieri abbiamo toccato in Italia un record storico nei consumi, lo ha comunicato Snam Rete Gas, 461 quasi milioni di metri cubi contro i 407 di domenica, ma insomma il dato, la media di solito in questo periodo è di circa 380 milioni di metri cubi, quindi siamo quasi siamo a 80 milioni di metri cubi al giorno, più della media. E oltre al blocco del rigassificatore di Rovigo si è bloccato anche praticamente quello di Panigaglia, -80% infatti il gas che arriva da lì, il terminale GNL Italia, deve produrre 6 milioni di metri cubi, ne sta producendo 1,2 milioni. Se i distacchi decisi dal Comitato di Emergenza Gas dovessero andare avanti per oltre 3 giorni, l'impatto sul PIL sarebbe dell'1%, addirittura è la stima di Gas Intensive, il consorzio di 8 associazioni di categoria di Confindustria, dei settori ad alto consumo di gas. Fino ad oggi, secondo il presidente Paolo Culicchi, le interruzioni avrebbero colpito 3/400 aziende. La Germania, la produzione industriale tedesca, allora non c'è nessun compiacimento nelle mie parole, anche se ricordo che la Germania ha continuato a dare lezioni a tutti, adesso parleremo della Grecia. La Germania dovrebbe anche ricordarsi come è stata aiutata dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè che cosa significa avere un piano di rilancio di un paese, si chiamò piano Marshall allora. Però insomma non c'è nessuna soddisfazione, però drastico e sorprendente, wunderbar, calo della produzione industriale tedesca a dicembre. Modestamente ci eravamo permessi di dire che se frena l'Europa, la Germania che esporta quasi il 60% in Europa, frenerà anche la Germania. È inutile continuare a pensare che la prima classe del Titanic, oddio, verrebbe dire del Concordia, si salvi rispetto ad altri. Comunque, drastico e sorprendente calo della produzione industriale tedesca a dicembre, -3% quasi rispetto a novembre, contro stime di un dato invariato. Andiamo bene, proprio bene. Una nota che riguarda la Confindustria, si è ritirato dalla corsa alla presidenza di Confindustria Andrea Riello, lo ha annunciato oggi nel corso di un incontro promosso dagli imprenditori del Nord-Est a Mogliano Veneto. A questo punto i due candidati restano Alberto Bombassei e Giorgio Squinzi. C'è chi scrive: come mai lei non è più filo governativo? E io come faccio a fargliela capire sta cosa? Non lo so. Mi sembra di essere Sisifo. Qui non si è filo governativi o contro governativi, ci sono idee opposte di molti nostri ospiti. Si va a vedere quello che è successo. Casomai lei dovrebbe scrivermi una volta come mai non ha più un libero pensiero. Allora sì, mi preoccupo. Vabbè, ma cos'è questa crisi? Oggi c'è qualcosa, c'è? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dalla crisi in Gran Bretagna. La Gran Bretagna non si fida dell'euro e questa non è una novità, ma Bristol non si fida dell'Inghilterra e della sterlina. Un gruppo di commercianti indipendenti ha lanciato, pensate, il Bristol Pound, e quindi una valuta che si accetterà tra ristoranti, caffè e anche per i traghetti. La nuova moneta sarà solo cartacea, ma potrà anche essere scambiata elettronicamente. Ci sono altre iniziative in Gran Bretagna, nel Devonshire, nel Gloucestershire, che però non sono decollate, e per la prima volta questa Bristol Pound potrà essere usato dalle imprese per pagare anche le tasse. Sarà stampato in tagli da 1, 5, 10 e 20 sterline, scambiate in rapporto 1 a 1 con la sterlina britannica. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Restiamo all'estero. I componenti del governo dell'assemblea costituente tunisini sono senza stipendio da 2 mesi, cioè da quando sono entrati nel pieno delle loro funzioni. Praticamente i 218 componenti dell'assemblea costituente hanno diritto a un'indennità parlamentare fissata in 2.500 dinari al mese, cioè 1.230 euro. I membri del governo tunisino provvisorio avrebbero diritto a un'indennità mensile di circa 2.200 euro, ma sono senza stipendio da circa 2 mesi. So già che alcuni di voi proporranno la cosa anche per i nostri parlamentari, ma cioè, è già dura accettare i tagli della diaria per i nostri parlamentari. Adesso, dopo la Gran Bretagna e la Tunisia, spostiamoci alla crisi da casa nostra. Casa nostra, a causa del caro benzina, alcune sezioni della Croce Bianca vicine al confine si recano in Austria per fare il pieno. Lo ha detto l'assessore provinciale Richard Tainer rispondendo in aula a un'interrogazione. Praticamente Artioli ha chiesto di fare in modo che anche in Alto Adige il leghista Elena Artioli fosse disponibile una carta sconto carburante. Però insomma, intanto la Croce Rossa altoatesina va a fare il pieno in Austria, non male. E poi il Pirellone. Noi qualche dubbio sul nuovo grattacielo della regione Lombardia l'abbiamo espresso in tempi non sospetti con Roberto Formigoni, il nostro ospite. Ma insomma, costerà 570 milioni alla fine. All'inizio si diceva 175 milioni. Poi, vabbè, tutto bello, 39 piani con un ascensore ultra tecnologico, ma insomma, ci sono cose che si capiscono un po' meno. Su super restyling da 50 milioni, la pedana da conferenze che costa 125 mila euro, divani, tappeti, letto matrimoniale, 43 milioni sono costati gli arredi interni, due divani con rivestimento sfoderabile nei coppelle da 12 mila euro, eppure questo bene, il tavolo direzionale del presidente 12 mila euro. E poi l'eliporto, la buvette, le cucine al 12esimo e al 13esimo piano. E tra il 34 e il 36esimo piano 64.000 euro. I tappeti fabbricati a mano con pelo corto e fitto in lino lana, spero non pelo, diciamo non pelo, 20.000 euro sono costati anche questi. 270.000 euro per le tende, 174.000 euro per altri accessori interni, 10 milioni per l'arredamento dei piani degli impiegati, 27 divani a bracciolo a sbalzo per gli uffici degli assessori, a sbalzo degli assessori o a sbalzo il bracciolo non si capisce, e poi 54 poltrone per i maggiorenti della regione, altri 44.000 euro. Ma parliamo della Grecia, che è meglio. Oddio. Allora. Sulla Grecia oggi è successo un po' di tutto. Perché? Perché c'è stata un'asta di obbligazioni, di debito greco, che è andata molto molto molto bene, nel senso è stata tutta sottoscritta. E allora vorrei capire in primo luogo con la voce sulla Grecia, e mi riferisco a Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Vorrei capire chi cavolo ha comprato l'asta di oggi, perché insomma dubito che era un settore, era chiaramente riferita diciamo a solo agli istituzionali, non potevano comprare i privati cittadini, ma chi ha comprato? Si pensa che abbia comprato la BCE e poi le banche greche, che sono quelle più, diciamo così, sottoposte a una moral suasion da parte del governo e da Papademos. Quindi attenzione, sì, il tasso è 4,85, quindi assolutamente 6 mesi, è andato molto bene, ma la questione è che non siamo rientrati sul mercato realmente, anche perché la situazione lì è ancora molto molto confusa, non c'è ancora l'accordo. Allora, non c'è ancora l'accordo per quello che riguarda i titoli a breve, ma in generale la ristrutturazione del debito. Ho un po' di problemi col tuo microfono, adesso vediamo se si sono sistemati. 812 milioni di euro a 182 giorni. Allora, in tutto questo Angela Merkel ha detto è possibile che le trattative si chiudano giovedì, ma c'è una dichiarazione di Neil Kroes che ci ha lasciato molto perplessi. Neil Kroes è il commissario europeo all'agenda digitale e ha detto al quotidiano fiammingo De Volkskrant, beh insomma non è che se un paese, nessuno muore se esce dall'euro. E poi oggi il portavoce della Commissione europea, Olivier Belli, ha detto, stiamo studiando anche gli scenari di un possibile fallimento greco. Ascoltiamo Belli. The Commission line is very clear on this file. We want Greece to remain a member of the euro area. La linea della Commissione è molto chiara su questo argomento. Vogliamo che la Grecia resti un membro dell'area euro. Questa è anche la posizione dell'Eurogruppo. La vicepresidente Kroes non ha chiesto che la Grecia lasci l'area euro e nemmeno ha detto che è uno scenario probabile. Ha solo affermato che l'euro è una moneta forte e che la Grecia deve affrontare le proprie responsabilità. Per il resto la Troica, ossia BCE, Fondo Monetario e Commissione, continuano a negoziare con le autorità greche un secondo programma di aiuti, con lo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa. Noi facciamo il massimo per sostenere lo sforzo della Grecia verso la stabilità. Siamo assolutamente fiduciosi che l'euro sopravviverà alla tempesta e uscirà da questa crisi ancor più forte. Siamo consapevoli che si sta discutendo di scenari rischiosi, proprio in un momento in cui si tengono incontri delicati ad Atene. Il compito della Commissione non è gettare benzina sul fuoco delle speculazioni. La Commissione non ha cambiato posizione ed è molto chiara. Vogliamo che la Grecia rimanga nell'area euro. We want Greece to remain in the euro area. E però ci deve essere un po' di confusione a Bruxelles, perché poi il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, dice no, noi vogliamo che la Grecia resti nell'euro o l'euro resti nella Grecia, non ho ancora capito chi dei due entra nell'altro. E attenzione, ha detto Barroso, il fallimento greco costerebbe più della solidarietà. Infine, Vittorio, concludo, il vertice dell'Eurogruppo aspetta di conoscere ulteriori dettagli prima di discutere tutto il piano di salvataggio della Grecia. Ricordo che entro il 13 febbraio la Grecia deve sostituire titoli in scadenza, che scadranno il 20 marzo, ma ci vuole un tempo tecnico, per quasi 15 miliardi di euro, e se non riceve la tranche da 130 miliardi di aiuti tra Fondo Monetario, BCE e Commissione Europea, non riesce a pagare quel debito. E a quel punto, come capita a un'azienda, nel momento in cui tu non riesci a ripagare un debito contratto, porti i libri in tribunale, nel caso della Grecia ti dichiari fallita. Ora, La situazione in Grecia però sta diventando drammatica, nel senso che le richieste, Vittorio, possiamo ricordare che richieste sono state avanzate? Settore privato? Sì, 20% di taglio dei salari, compresa la riduzione della tredicesima nel settore privato, perché c'è un salario minimo, cioè in Grecia esiste appunto il salario minimo per legge, in Italia non c'è perché abbiamo i contratti collettivi a cui il giudice fa riferimento, essendo i contratti collettivi paragonati poi a normative per il noto principio degli erga omnes. Quindi noi non abbiamo un salario minimo garantito per legge. Gli altri paesi ce li hanno ed è la cosa, diciamo, abbastanza singolare che in Grecia sia uno dei più alti dell'Unione Europea, 857. Allora, come si fa a recuperare competitività? Bisogna naturalmente ridurre il salario, perché se non hai la moneta per svalutare, come nel caso greco che non può naturalmente svalutare l'euro, bisogna ridurre i salari per aumentare appunto questa competitività. 20%, sempre meglio che perdere tutti i posti di lavoro, però oggi c'è un altro sciopero generale. Insomma, il paese e soprattutto la sua classe politica, i partiti politici, per tanto tempo hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi. Adesso bisogna ridurre e ricominciare ad avere questo. Allora hanno chiesto queste cose che tu mi dicevi, cioè taglio dei salari, poi naturalmente riduzione ancora della previdenza e tagliare i dipendenti pubblici, che in Grecia sono 760.000, ne bastano 600, cioè ce ne sono 150.000 in più. Ne avevano promessi 30.000 in meno, ne hanno mandati in prepensionamento 10.000, mille li hanno semplicemente, appunto, non li hanno rinnovato il contratto, sostanza ce ne mancano ancora 15.000 per il 2011, cioè l'Europa è stanca di avere delle rassicurazioni che poi puntualmente però non vengono messe in pratica. Ecco perché la Merkel ha detto: mettiamo i soldi che vi daremo in un fondo speciale che deve essere utilizzato per pagare i bond che andranno in scadenza. Cioè, dato che non mi fido della classe politica greca, che quando gli do i soldi mi minaccia e mi ricatta con il default e poi non fa le cose che abbiamo promesso e abbiamo sottoscritto, mettiamo i soldi per evitare che questo ricatto continui, quindi noi garantiamo che i debiti della Grecia verranno pagati dall'Europa, ma attraverso un fondo gestito dall'Europa, e quando la Grecia dimostra di fare i compiti a casa, gli daremo i soldi anche per andare avanti e per ricrescere e per recuperare la competitività. Un gioco proprio. Sì, c'è qualcosa che mi sfugge. Nel frattempo vedo che c'è chi dice che io attacco troppo il governo, che fa il paio con chi dice che io sono troppo figlio governativo, ma va bene così. C'è qualcosa che mi sfugge, Vittorio. Tutto vero, i greci hanno l'evasione fiscale più alta d'Europa, i partiti greci sono stati soprattutto, non il Partito Socialista ma quello precedente, sono stati quantomeno collusi nel creare il falso in bilancio sul bilancio greco. C'è un sistema di evasione fiscale che fa impallidire perfino l'Italia, che è il secondo paese, e c'erano dipendenti pubblici, abbiamo ricordato molte volte, che avevano qualunque tipo di garanzie, di diritti, di permessi. Non funzionava niente, però. Ed è vero che i governanti greci, che adesso sono sotto elezioni, traccheggiano un po'. Ma mi chiedo, oggi durante lo sciopero hanno bruciato la bandiera tedesca, i manifestanti che hanno invaso Piazza Sintagma, allo slogan fuori nazisti. Non c'è il rischio che, voglio dire, se tu una terapia da cavallo ha senso finché il cavallo vive. Allora, se io imbottisco una persona di antibiotici per farlo riprendere, un conto. Ma se gli levo anche l'acqua e il cibo, probabilmente l'effetto che ho è di peggiorare la malattia. Voglio dire, giusto non prestare i soldi alla Grecia, ci mancherebbe, non sapendo dove vanno a finire. Ma non è che qua stiamo rischiando di far sprofondare la Grecia in una tale spirale negativa, secondo proprio l'anti-Keynes per definizione, per cui questi non riusciranno mai più a ripagarti, perché nel momento in cui i salari li porti i minimi da 780 euro a 580, levi le tredicesime e riduci il pubblico impiego, il paese implode su se stesso, ci sono i pensionati che vanno per strada a dare una mano ai mendicanti, cioè vediamo cose obiettivamente imbarazzanti e non capisco quale sia il punto finale di caduta, Vittorio. Sì, questa è stata un po' l'accusa che è stata fatta al, diciamo così, al piano, al fondo monetario, che ha soprattutto pesato sull'austerity, cioè sui tagli, piuttosto che sul rilancio e quindi in qualche modo sulle nuove, su nuovi investimenti. Il problema però è quello di trovare un meccanismo che consenta al paese di, come se fosse appunto un'azienda, tu quando hai un'azienda che va male, perché ha un settore che non funziona, devi fare naturalmente la prima cosa che arriva il commissario, dice tagliamo i costi, e allora cominciano a fare i controlli, riducono le spese, ti riducono se vuoi anche tutte le attività diciamo non strategiche, tagliano la ricerca, eccetera, eccetera. La cosa però importante è per il turnaround è che poi tu devi avere qualcosa da vendere sul mercato. Perché se non hai anche delle entrate, tu puoi tagliare finché vuoi, ma non riuscirai mai. Il problema è che l'Italia, quando tu dici riduci il deficit, ma se non riparte la crescita, perfetto, puoi continuare a ridurre quanto vuoi il deficit. La Grecia però, dimmi un prodotto che trovi sul mercato globale, cioè se non sia naturalmente il turismo e i soliti... Lo yogurt, non so. Il famoso yogurt, la feta, certamente, però ecco, mancano dei brand, manca della tecnologia, mancano degli investimenti. Sì, ma non possiamo, adesso l'abbiamo tollerata per due anni, fino a due anni fa, non possiamo immaginare adesso che la Grecia diventi un'altra cosa. Un conto è chiedergli di raddrizzare la schiena, i conti pubblici, combattere l'evasione, avere un pubblico impiego che non vada a casa alle due con mille permessi, e questo si può fare. Chiedere alla Grecia di diventare la Scandinavia in due anni, adesso obiettivamente o sei Harry Potter o non ho capito come tu possa fare, cioè non vorrei che ci fosse anche del velleitarismo in questo. E ricordo ai cugini, nipoti, zii, non me ne frega nulla, tedeschi, che la Germania fu aiutata da centinaia di miliardi americani dopo la ricostruzione, che il piano di Helmut Kohl per la riunificazione, se si fossero adoperati i criteri di Maastricht, restavano ancora due Germanie. Cioè, no, ogni tanto bisogna anche capire quando usare il bastone e quando usare la carota. Prossime tappe invece per sapere se qua si va al fallimento. Guarda, oppure... se oggi la Merkel ha fatto trapelare che secondo lei l'accordo si farà giovedì, noi aspettavamo questa sera, ma evidentemente lei è più ben informata. Se c'è questo accordo, che come ti dico è abbastanza severo, ma non impossibile, si va al famoso haircut, cioè a questo swap di tutti i bond, dove dovrebbero appunto ridurre di 100 miliardi e dire vabbè, abbiamo perso 100 miliardi dei valori nominali e quindi i grandi istituti, le grandi banche tedesche e francesi soprattutto perdono questa diciamo volontariamente questa rinunciano cosa. A rinunciano. Parte del prestito che hanno concesso alla Grecia e si rifanno ridare in cambio gli obbligazionisti italiani. Di obbligazioni argentine si ricordano cosa vuol dire ristrutturare il debito, cioè riavere forse il 30%. Grazie Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora, vedo molti sms 349-238-6666 sulla Grecia e sulla Germania. Nessuno ha preso in giro la Grecia, a me è sembrato di difendere anche le posizioni ogni tanto greche. Poi ha ragione chi scrive, ma perché se la Grecia faceva così schifo ai tedeschi, le banche tedesche si erano riempite di debito greco? È vero, 50 miliardi quelle francesi, 30 miliardi quelle greche. Meteo e quelle tedesche, per cui se vi faceva così schifo non dovete prestare i soldi, no? Non è che prima presti i soldi e poi li tratti come dei paria nell'Unione Europea. Più 0,60% la chiusura di Milano, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms. 17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriviamo tra poco alle dichiarazioni del governo in tema di giovani. Della Grecia non possiamo più parlare, adesso vedremo che cosa capiterà. Quando però il presidente della Commissione Europea Barroso dice ci costerebbe di più il fallimento che la solidarietà, insomma, allora si chiarissero le idee anche a Bruxelles. Parliamo subito della borsa invece. Unicredit più 4,70, Telecom più 3,5, Mediolanum più 1,5, come Intesa San Paolo, l'1,20 lo guadagna l'automatica e anche UbiBanca, lo 0,90, Buzzi, Unicem. Sul fronte opposto, Impregilo meno 5, Ferragamo meno 2,30, ST Microelectronics meno 1,80, Atlantia meno 1,70, Finmeccanica meno 1,6, Pirelli meno 1,4, Monte dei Paschi e Azimut perdono l'1-1. Milano comunque chiude tra le migliori, forse la migliore, più 0,60 contro un più 0,20 di Parigi, un meno 0,16 di Francoforte e un meno 0,13 di Londra. L'America guadagna lo 0,26%. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, parliamo di Fondiaria Assai, perché ieri più 30, più 25, oggi meno 20, Fondiaria Assai e Unipol meno 16%. Sì, esattamente, i titoli sono decisamente sull'otto volante, proprio colpiti dalla speculazione, visto che sono ovviamente tra i titoli più osservati in questa fase, proprio in vista della maxi aggregazione che dovrebbe portare a fondersi proprio Fondiaria Assai, Unipol, Premafin e Milano Assicurazioni. I titoli avrebbero messo a segno dei rialzi molto consistenti, in particolare Fondiaria Assai al salita ieri del 31% e addirittura del 111% nell'ultima settimana, mentre per Unipol i guadagni erano stati del 30% ieri e del 63% negli ultimi 7 giorni, movimenti su cui già la Consob sta indagando per capire se tutte le operazioni sono state corrette. Nel frattempo oggi alcuni di quelli che hanno guadagnato con questi rialzi sono passati all'incasso, quindi sono scattate le prese di beneficio. Fondiaria Assai ha perso il 19,49%, mentre Unipol ha perso il 12,5% e ad esempio Premafin ancora ha perso quasi il 10%. Naturalmente perché si arrestino le speculazioni sui titoli bisognerà capire bene come i dettagli dell'operazione e quindi che tutto vada a posto. Titoli principali invece in pregilo meno 5. Per quanto riguarda Impregilo, oggi è stato appunto il titolo peggiore sul paniere principale e paga le indiscrezioni su una possibile uscita dei Salini dal capitale del gruppo. La famiglia Salini, i costruttori romani, avevano comprato il 15% di Impregilo nella prospettiva magari di realizzare un'aggregazione tra i due gruppi, prospettiva che aveva sostenuto le quotazioni del titolo nelle ultime settimane. Ricordiamo che l'altro fronte aperto è quello dell'assetto nella holding di controllo Igli, cioè tra la famiglia Gavio e la famiglia a Benetton dopo l'uscita dei Ligresti. Adesso sembra che, visto che gli altri soci forti non sembrano interessati a un'aggregazione con Salini, il costruttore romano possa uscire dal capitale. Naturalmente questa è una prospettiva che spegne la più speculativo sul titolo, che infatti ha già perso il 5%. Allora, Finmeccanica debole, ci sono indiscrezioni che la controllata Selex abbia perso 150 milioni di euro nel 2012. Le banche, allora, quello che sta capitando è che con i soldi, anche con i soldi della Banca Centrale Europea, le banche stanno facendo buyback, cioè si ricomprano obbligazioni da loro stesse emesse. Unicredit più 4,70, ma anche Intesa più 1,5. Esattamente, sono operazioni con cui di fatto le banche si ricomprano parte del debito emesso guadagnandoci, perché lo comprano con uno sconto variabile sul prezzo nominale, quindi queste operazioni portano dei benefici sul fronte patrimoniale a livello di Core Tier 1. Unicredit è l'unica banca che ha già concluso questa operazione, perché è stata la prima ad averla lanciata. Ieri aveva annunciato i risultati proprio del riacquisto, giudicati soddisfacenti dagli osservatori. Il beneficio sarà di circa 530 milioni, quindi oltre 11 punti base sul Core Tier 1, e oggi il titolo ha guadagnato il 4,7% e beneficiando anche tra l'altro della conferma del rating da parte di Fitch, che ieri invece ha tagliato quello di altri istituti come MPS, Intesa e il Banco Popolare. Un'ultima nota, BPM perdeva, ma è arrivata la conferma dell'uscita di Chiesa dalla non banca? Non è ancora arrivata, dovrebbe arrivare oggi, comunque secondo molte indiscrezioni è imminente l'uscita di Chiesa e quindi l'assegnazione di tutti i poteri al nuovo amministratore delegato Piero Montani. Alla fine il titolo si è ripreso, è salito dello 0,7% in borsa. I migliori invece sono le buone società, più 22,7%, e Ciccolella, un grande ritorno, più 16,70%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Core, Sole 24 Ore, il traffico. Allora, restiamo in tema di conti, di bilanci, ma parliamo di Sisal, che è l'azienda privata italiana che ha in concessione dei monopoli di Stato la gestione di giochi d'azzardo e scommesse. Siamo in collegamento, vorrei parlare anche però di gioco e di allarmi lanciati dai parroci sulla dipendenza da gioco. Siamo in collegamento con il ministro delegato di Sisal, Emilio Petrone, buonasera. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Partiamo prima da voi come società, e ci mancherebbe, poi invece andiamo anche sui temi legati al gioco, la polemica di questi giorni, di alcuni parroci, ma non solo. Voi avete chiuso, se ho ben visto, il 2011 con tutti i dati in crescita, sia il fronte che riguarda i servizi a pagamento, bollette, bollo auto, ricariche, sia il fronte giochi. Può darci le cifre? Sì, il 2011. 2011 effettivamente è stato un anno molto positivo per la nostra azienda, per il gruppo Sisal. Il nostro volume d'affari è stato di oltre 13 miliardi di euro, di 13,3 miliardi per la precisione, siamo cresciuti di quasi il 18% sull'anno l'anno precedente. Devo dire che sostanzialmente questo progresso è legato al gradimento che i nostri clienti, i nostri consumatori finali hanno avuto per i nostri prodotti e per i nostri servizi. I nostri giochi, di cui insomma un po' il più famoso, il più popolare è il Super Enalotto, ma abbiamo tanti altri marchi come ad esempio Match Point, sono stati molto graditi nel 2011, hanno avuto un'ottima performance. Siamo cresciuti tanto anche nella divisione servizi di pagamento, sono una serie di servizi tra cui la possibilità di pagare le bollette, di ricaricare le schede telefoniche eccetera, che noi offriamo ai nostri clienti su tutta la nostra rete, ovvero sia sui bar e sui tabacchi che lavorano con noi. E quindi appunto un più 26,8% dal comparto servizi a pagamento, sono 5 miliardi e 3 e 8 miliardi dai giochi. Vedo già degli sms al 349-238-6666, dico subito che Sisal è una società come altre, anche perché significa 1400 dipendenti, sono 45.000 punti vendita, poi avete 200 sale Match Point, 1000 corner sportivi, 5 mega sale in Italia e 100 schermi per le proiezioni degli eventi sportivi. Lei come se lo spiega che nonostante il 2010 sia stato un anno di crisi, 2011 mi scusi, i giochi sono saliti del 12%? Ma guardi, quelli lì sono dei dati lordi, ovvero sia il giocato lordo, in realtà la spesa dei giocatori, cioè quello che effettivamente il consumatore, il giocatore spende, è cresciuto soltanto del 2-3%, quindi poco più dell'inflazione. Comunque il settore, il comparto è un comparto sano che sta crescendo, devo dire soprattutto ritengo sia molto ben regolato, molto ben gestito dal Ministero dell'Economia, dai monopoli di Stato che progressivamente stanno aprendo dei nuovi segmenti e lanciando dei nuovi segmenti di gioco. Poi anche noi operatori, ovvero sia i concessionari, cerchiamo da una parte naturalmente di seguire questi nuovi prodotti lanciando dei nuovi giochi, dall'altro per la verità di spingere, di far sì che ci sia un gioco di tipo responsabile, ovvero sia che si giochi ma non in maniera, eccessiva. Adesso ci arriviamo, però una domanda, potrebbe anche essere che gli italiani hanno giocato di più perché proprio la crisi porta a scommettere sull'azzardo, cioè vista la difficoltà economica? No, questo non è vero. In realtà se c'è crisi, se ci sono meno quattrini a disposizione, come è il caso dell'Italia di questi ultimi mesi, anche il settore del gioco ne soffre e ne risente. Poi certo è un settore che, come abbiamo visto, ne risente meno di altri, è un settore che continua la sua leggera crescita, altri settori invece hanno avuto un brusco calo. Però non è vero che quando le cose vanno male le persone giocano di più. Veniamo al 2012. Le attese sono per una crescita sostenuta come l'anno scorso o una crescita più bassa? Innanzitutto le attese sono per un anno sicuramente molto difficile, molto sfidante, perché come dicevo prima la situazione dei consumi, la situazione generale dell'economia europea, occidentale, dell'Italia la conosciamo tutti e quella impatta anche noi. Quindi innanzitutto noi abbiamo varato un piano di grande attenzione ai costi e di supporto con dei nuovi prodotti e delle nostre linee con degli investimenti significativi. Poi certo ci aspettiamo, stiamo pianificando un anno ancora di sviluppo, perché credo abbiamo seminato bene e investito bene negli anni precedenti e quindi abbiamo creato una piattaforma e una base che sta avendo il gradimento dei consumatori. Ci auguriamo di crescere come nel 2011, ma sicuramente sarà molto difficile, sarà molto sfidante. Allora veniamo al tema del gioco responsabile, perché si è accesa un po' una nuova polemica, chiamiamola così, da parte dei parroci preoccupati per quanto giocano i loro fedeli. Devo dire una cosa, come dati complessivi che non riguardano in questo caso solo Sisal, e cioè l'aumento delle cifre giocate c'è ed è netto. Se noi andiamo a vedere 10 anni fa gli italiani giocavano all'otto, totocalcio, lotterie, quasi 4 miliardi di euro, ora parliamo di gioco legale chiaramente, a 76 miliardi. Poi c'è una stima di un'altra decina di miliardi di gioco illegale, ma questo non ci interessa. Sono 1260 euro pro capite, neonati compresi. E qui c'è il doppio tema, cioè da un lato quanto lo stato agevoli il gioco. C'è chi arriva a parlare di ludopatia, cioè di dipendenza dal gioco d'azzardo, si stima che ce ne siano 800.000 persone dipendenti. Ma dall'altro anche che cosa fate voi come soggetto per invitare a un gioco responsabile. Cioè, io capisco che il discrimine sia molto sottile tra svolgere la propria attività commerciale, quindi proporre, incentivare, e però diciamo, incentivare in maniera responsabile. Prima un commento sui dati. Come dicevo prima, questi dati sono dati lordi e quindi non rispecchiano quanto gli italiani spendono per il gioco. Gli italiani spendono per il gioco più o meno il 20%, 25% di quello che lei diceva, quindi all'anno non 1200 euro, ma circa 300-350 euro. Quindi stiamo parlando più o meno di un euro, mediamente di un euro al giorno. Questo perché appunto quello che bisogna valutare è la spesa, ovvero sì, il costo netto del giocare. Però a parte questo fatto, diciamo tecnico ma comunque importante, io sono d'accordo con lei, bisogna da una parte, il nostro lavoro, noi distribuiamo gioco, dall'altro però siamo molto fermi nel farlo in maniera responsabile. Io credo che queste due cose si possano conciliare anche con una relativa facilità. Bisogna darsi delle regole, peraltro le regole ce le danno e ci vengono imposte sia dalle leggi che dai monopoli di Stato, quindi dal nostro regolatore. Noi nel caso di FISAL abbiamo deciso di darci delle regole ancora più stringenti in molti casi. Le faccio un esempio: nel caso della comunicazione pubblicitaria abbiamo deciso non solo di rispettare le norme di autodisciplina, ma di aggiungere alcuni elementi interni che ci siamo dati noi internamente, in modo da far sì che la nostra comunicazione pubblicitaria sia dal nostro punto di vista la più responsabile possibile. E poi si tratta di vivere con queste regole. Il secondo tema è quello di far sì che in tutto quello che facciamo queste regole vengano rispettate. Noi lo facciamo facendo parte del programma di gioco responsabile, e quindi ad esempio, come le dicevo, mettendo delle norme specifiche sulla comunicazione, ma anche sviluppando e testando i giochi in modo che siano i giochi stessi dei giochi responsabili, ovvero sia dei giochi che non inducono a delle patologie o a degli eccessi. Ecco, l'altro fronte che può sembrare paradossale o quantomeno opposto è chi dice che lo Stato guadagna troppo poco dai giochi. All'inizio degli 90 il ricavato dello Stato era circa il 32%, ora il prelievo complessivo è del 12%. Tra l'altro sul casinò online addirittura lo 0,14%. Sostanzialmente su 2 miliardi su 1 miliardo e 6 spesi in casinò online lo Stato guadagna niente, briciole, 2 milioni e 170 mila euro. Ora io mi rendo conto che chiedere a lei se è a favore di una tassazione più alta sulla sua azienda è un po' come chiedere al tacchino se vuole anticipare il giorno del ringraziamento, però lei non ritiene che il prelievo dovrebbe essere più alto complessivamente? Premetto che questo prelievo non è un prelievo che incide sulla mia azienda, è un prelievo che incide sul consumatore, è il consumatore che paga questo tipo di tasse a cui lei si riferisce. Quindi io sono da questo punto di vista abbastanza neutro e non ritengo comunque in ogni caso che si debba aumentare questo prelievo, perché è vero quello che lei dice, che la percentuale nel tempo è calata. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Abbiamo ringraziato nel frattempo anche il ministro delegato di Sisal, Emilio Petrone. Sì, è stato interrotto, ma sono le regole che abbiamo, per cui dobbiamo rispettare il clock in maniera precisissima, cioè, quindi l'orario in maniera precisissima. Cambiamo tema invece e dedichiamo questa seconda parte di Focus Economia al dibattito, quindi alle misure, allo studio in tema di riforma del mercato del lavoro, ma anche alle dichiarazioni, alle polemiche che si accompagnano a queste continue esternazioni. Il Wall Street Journal oggi scrive: attenzione, la più grande minaccia alla crescita economica dell'Italia non è il debito pubblico, ma l'articolo 18, il vero è un relitto degli anni 70 che rende impossibile licenziare anche il più incompetente dei dipendenti ed è in modo perverso causa di ciò che dovrebbe prevenire la disoccupazione. È questa norma che fa sì che l'Italia sia il secondo peggior paese in Europa in cui fare impresa dopo la Grecia. Poi però l'OCSE oggi è intervenuta, il segretario generale dell'OCSE Miguel Gurria in visita in Italia ha detto: attenzione, l'articolo 18 non è il punto fondamentale della riforma del lavoro allo studio in Italia, si parla di flessibilità ma anche di reti di protezione per chi oggi non le ha e di reinserimento nel mercato del lavoro. Ne parliamo con l'economista Tito Boeri, docente di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, fondatore del sito La Voce e uno dei due autori, assieme al professor Garibaldi, della riforma che ogni tanto citiamo, della proposta Boeri-Garibaldi. Buonasera, professore. Buonasera. E grazie anche all'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera anche a te, Guido. Buonasera a voi. Prima di tutto, poi arriviamo alle proposte e ai contenuti, però insomma, la politica è fatta anche e soprattutto di comunicazione, di relazione, ne sa qualcosa il governo precedente, e a mio avviso una riforma che, come quella delle pensioni, per carità, va a toccare una platea così ampia di persone che in questo momento hanno difficoltà. Sappiamo che la disoccupazione italiana sul fronte giovanile è a record, oltre il 30% di disoccupati. A mio avviso, insomma, stanno parlando un po' tanto questi tecnici, per essere tecnici. Mi immagino che un tecnico faccia e parli poco, anche perché non è in campagna elettorale, non ha un collegio elettorale, non è i partiti che lo sostengono, perché non dimentichiamoci che sotto di loro, in Parlamento, chi deve votare queste cose sono i partiti. E invece ha iniziato, faccio un brevissimo escurso, sullo scorso 24 gennaio, il ormai mitico vice ministro del lavoro Michel Martone, quello che poi si è scoperto, insomma, avere suscitato qualche dubbio nei commissari che lo fecero passare alla cattedra in età giovanissima, ma al di là di questo la famosa dichiarazione: a 28 anni se non hai ancora la laurea sei uno sfigato. Dobbiamo fare lo sforzo, io mi ci impegnerò, anche di comunicare ai nostri giovani dei messaggi veri, tipo: se a 28 anni non ti sei ancora laureato sei uno sfigato, tipo: se a 18 anni hai scelto, se a 16 anni tu scegli di fare un istituto tecnico professionale e decidi di farlo bene, bravo. Allora, vediamo di capirci subito, l'abbiamo detto più volte in questo programma, non è il contenuto a essere sbagliato, personalmente condivido molto delle cose dette, è il modo in cui si dice e chi lo dice. Su Martone ne abbiamo parlato molte volte, se poi tu sei il figlio del principale consulente di Brunetta, hai lavorato per Brunetta, sei diventato professore con meriti, insomma, ne abbiamo parlato, così giovane, forse, fallo dire a qualcun altro. Mario Monti, anche lui poi ha fatto retromarcia, insomma, a Matrix lo scorso 1 febbraio. I giovani si abituino a non avere il posto fisso a vita, il posto fisso è anche una monotonia. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide, purché siano in condizioni accettabili. Anche qui le sfide sono bellissime, se te le puoi permettere, non vi dico i messaggi che sono arrivati in questi giorni, anche la moglie a vita è una monotonia, anche essere senatore a vita è una monotonia, cioè il problema è, mi sembra che qui l'attenzione si sposti più sul posto fisso, che non avevo capito essere l'oggetto della riforma, piuttosto che su un mercato del lavoro estremamente disuguale tra chi ha i diritti come il sottoscritto e i giovani che hanno 20-30 anni, che i diritti ne hanno molti meno se non nulla. Ebbene, ieri poi l'apoteosi, perché prima il ministro Fornero di nuovo in maniera secondo lei travisata se la prende col posto fisso e lì le polemiche sulla figlia del ministro, poi anche il ministro Cancellieri, che facendo ministro all'interno, io vorrei capire che ci azzecca la sua dichiarazione, però intervistata dal TGcom 24 non parla di mafia, di 'ndrangheta, ma di nuovo di posto fisso. Bisogna confrontarsi con un mondo che è cambiato, guardiamo anche i paesi emergenti e lì proprio cambia il modello del lavoro. Bisogna essere in grado di cambiarlo, di muoversi sul territorio nazionale. Noi italiani siamo piuttosto fermi proprio come struttura mentale al posto fisso e magari nella stessa città, magari accanto alla mamma e al papà. Ecco, io credo che anche qui il nostro paese dovrà fare un salto culturale. Poi la correzione, oggi ho usato una frase infelice sui giovani, ministro Cancellieri, non era mia intenzione, ma c'è una cultura che ha difficoltà ad allontanarsi da casa. Allora, Tito Boeri, poi Guido Gentili. Primo commento, professor Boeri. Io ho la sensazione, cioè chi vi parla, io sono andato via di casa a 18 anni e poi sono andato all'estero a lavorare a 25 per essere biografici, però ho la sensazione che questi professori si stiano rivolgendo a più al mondo che era il mio che al mondo che è adesso. E cioè quando ancora c'erano aspettative crescenti, giustamente eri uno sfigato se ti laureavi tardi, il resto di questa idea, se non hai altri motivi, giustamente eri un mammone, un bamboccione se non te ne volevi andare, perché c'erano determinate condizioni anche fuori. Ora, dirlo con il picco di disoccupazione dagli ultimi 8 anni a questa parte, con una crisi che prima non si era mai vista, con contratti continuamente interinali, non è parlare a un mondo che non c'è più, professor Boeri? Innanzitutto due cose sul metodo. Io trovo che un governo impegnato in una trattativa così delicata dovrebbe davvero prestare massima attenzione alle cose che dice, che tutti i suoi esponenti dicono, perché si rischia sempre di essere male interpretati, quindi francamente suggerirei di parlare d'altro nel momento in cui c'è una trattativa in corso. Secondo, starei attento anche perché è provato che questi annunci interventi, questo fatto che si dica se noi stiamo cambiando questo, l'articolo 18 eccetera, rischiano di congelare le assunzioni. I direttori del personale dicono che in contesti di questo tipo le imprese decidono di aspettare perché vogliono vedere che cosa sta succedendo, e questo sarebbe una cosa che in questo momento anche di recessione alle porte e insomma difficile per la nostra economia, è certamente una cosa che non possiamo permetterci. Terzo, c'era uno stile con cui questo governo aveva iniziato la sua attività, che mi sembra uno stile molto apprezzato dagli italiani, una sobrietà, il fatto di fare più che parlare, che contrastava con l'indecisionismo di tanti governi precedenti. Ecco, se noi cominciamo a fare questo, rinunciamo a questo valore positivo, proprio questo metodo di governo che mi sembrava questo esecutivo ci stesse dando. Allora, professor Boeri, dopo il traffico invece vorrei entrare nei contenuti, quindi le posizioni anche sul posto fisso, sul mercato del lavoro, sull'articolo 18, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Boeri, al di là della forma e dell'eccesso di dichiarazioni di alcuni ministri del governo, le prese di posizione invece sul posto fisso, mercato del lavoro? Nel merito, velocissimo. Quello che ne abbiamo visto è che durante la grande recessione del 2008-2009 le famiglie italiane sono tornate ad aumentare di dimensione, e proprio si è invertita una tendenza che sembrava inarrestabile. Perché? Perché molti, in effetti, giovani sono tornati con i propri genitori. Io non credo che l'abbiano fatto perché sono dei mammoni o per questioni culturali, ma perché la situazione economica era talmente difficile che molti di loro hanno avuto come unica possibilità quella di tornare con i loro genitori, perché oggi non esistono in Italia ammortizzatori sociali che esistono negli altri paesi. Negli altri paesi esiste quella che si chiama assistenza sociale, che permette a chi è in condizioni di grave disagio di poter avere un'assistenza. In Italia non c'è, l'unico ammortizzatore sociale che abbiamo di ultima istanza è la famiglia, quindi i giovani sono tornati a casa loro, quindi in questo momento parlare di mammoni, certamente c'è anche questa componente. Ma c'era anche prima. Mi sembra fuori luogo, ma c'è sempre stata. Secondo, merito, dire sfigato, ma insomma il merito, chi crede nel merito, il fatto di introdurre il merito, lascia che il merito lo dicano gli altri, non è un politico che giudica se uno è bravo o meno, ci sono delle università che funzionano, ci sono meccanismi di reclutamento che devono premiare, il politico deve fissare le regole, poi il giudizio sui singoli casi e sulle scelte di diverse persone non lo deve mai dare il politico deve solo dare le regole, anche perché i politici non hanno certo una carriera meritocratica oggi in Italia. Sì, Martone non è un politico, però insomma è figlio di Martone e quindi ha lavorato con Brunetta. Caso specifico, devo dire, ci sono tante altre cose da dire, cioè era una commissione in cui quell'esame lì in cui è passato Martone. 8 candidati, 6 si ritirano, 2 restano, dubbi della commissione su... Avevo una sola pubblicazione, quindi ecco, insomma, davvero, da che pulpito. Poi, ultima questione sul posto fisso, io francamente non capisco la logica. logica di queste affermazioni ripetute. Vogliono farci credere, vogliono far credere i giovani che è meglio avere un posto di lavoro precario, un contratto a tempo determinato di uno a tempo indeterminato. Se ci vogliono provare, penso che sia un'impresa assolutamente impossibile. No, io lì adesso voglio spezzare una lancia a favore. Immagino che stiano cercando di interpretare il fatto che il posto fisso per cui tu fai lo stesso lavoro tutta la vita non è più, diciamo, nel segno dei tempi. A parte il fatto che penso che anche l'operaio della Fiat in catena di montaggio fosse d'accordo che il posto fisso non aveva senso, però poi uno deve essere nelle condizioni di trovare qualcosa di meglio, se no, benedetto il posto fisso. Seconda obiezione, e leggo molti sms al 349-238-6666, c'è la sensazione, Guido Gentili, la domanda adesso è per te, che il governo se la prenda, faccia il forte con i deboli, il debole con i forti. Mi spiego. Questo governo è stato accusato di essere il governo dei banchieri, e per carità, un esponente del mondo bancario lì ha dentro. È stato accusato di prendersela con i tassisti più che con le grandi potentati economici, a partire dalle partecipate, poi l'Eni in realtà ha avuto l'operazione su Snam, ma le ferrovie no, le poste no e quant'altro. E insomma, vedere che tutta l'attenzione si concentra sui giovani che devono smettere di pensare al posto fisso, che mai forse ci hanno pensato a mio avviso, per quello che vediamo, e non so, il tema del rapporto tra banche e giovani, allora o qui si pone, come scrivono molti, anche il tema che la banca però poi vuole sapere se hai posto fisso per darti il mutuo, se no lo fa con l'ipoteca dei tuoi genitori, o se no mi sembra che ci sia un distacco accademico, cattedratico, tra quello che si pensa essere la società, magari hanno visto solo studenti, hanno visto meno giovani di altro genere, e quella che poi è la realtà di tutti i giorni, che uno fa anche il lavoro flessibile, cambia posto di lavoro, fa la partita IVA, poi va in banca e non gli accendono il mutuo. Guido. Sono veri entrambi gli aspetti. Allora, in tutto, anche io sul metodo sono, diciamo, molto colpito da questo modo di procedere per battute, che secondo me non porta da nessuna parte dal punto di vista delle soluzioni possibili, e rende ancora più complicato un dibattito che già è difficile di per sé. Vorrei ricordare tra l'altro che nel 2009 fu invece ci furono delle battute del ministro dell'economia Tremonti, che fece l'elogio del posto fisso, no? E fu criticato per questo. Però appunto le battute, che siano in un senso o nell'altro, secondo me lasciano il tempo che trovano, e anzi complicano di molto i discorsi su un terreno ad altissima sensibilità sociale, e che purtroppo, io adesso non voglio ricordare episodi drammatici, ma che insomma questo del mercato del lavoro e dell'articolo 18 è stato un terreno su cui ci sono morte persone, esatto, abbiamo avuto anche degli esercizi di terrorismo su questo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è vero, io quello che dicevi ad esempio sui giovani e nel rapporto per esempio con le banche è la cosa che mi è venuta in mente quando è stato diciamo evidenziato che dal decreto sviluppo Italia, come è stato chiamato, è uscita la norma che consente ai giovani di creare una società con un solo euro di capitale, no? Ecco, io mi domando, una volta creata questa società, quando un giovane si presenta appunto in banca, di quali prestiti può usufruire, diciamo, essendo i rapporti tra il sistema bancario e i clienti in generale e le imprese in particolare molto molto difficile. Sappiamo quanto sia difficile avere un mutuo o un prestito, quindi bisogna su questo terreno procedere a mio avviso con innanzitutto non per battute, e secondo andando molto dentro a quella che è la vita reale delle persone, e quindi evitando, diciamo, sia facili soluzioni che poi sono solamente buone per prestare un titolo di giornale per un giorno, sia idee, e tra l'altro vorrei notare che anche oggi il segretario generale dell'OCSE ha osservato che non si tratta solo di parlare dell'articolo 18, ma bisogna parlare dei problemi, diciamo, del reinserimento delle persone sul mercato del lavoro, della flessibilità in generale, del reimpiego della manodopera. Insomma, che il discorso è molto più complesso, e quindi non rimanere ancorati solo a questo articolo 18, che purtroppo di cui parliamo inutilmente dalla metà degli anni 90. Allora, venendo alla parte ancora più concreta, professor Boeri, oggi un rapporto diffuso dalle agenzie fa sapere che praticamente in Italia mancano 42.000 CGA di Mestre. Su dati Excelsior, Ministero del Lavoro, mancano 42.250 posti nelle imprese, dai commessi ai camerieri fino ai baristi, 5.000 posti di commessi, 2.300 di camerieri, informatici telematici 1400 posti, meccanici 1200 posti. Allora, restiamo sulla riforma. Mi sembra di poter dire che in questo momento il problema non è la flessibilità in ingresso tout court, ma il fatto che da noi si resta precari troppo a lungo. Allora, la vostra proposta è quella di fare cosa? Di irrigidire il rapporto di lavoro man mano che io lavoro per un gruppo. Cioè, arrivo al Sole 24 Ore, il primo anno me lo faccio da precario, diciamo. Poi, secondo, terzo anno inizio ad avere un contratto un po' più a termine e poi divento a tempo indeterminato, ho capito bene? No, il contratto è fin da subito un contratto a tempo indeterminato, fin dal primo giorno di assunzione, quindi non ha una scadenza come i contratti che vengono oggi proposti ai giovani, ma non soltanto ai giovani, perché purtroppo ormai questo fenomeno si estende anche a persone che hanno 40-45 anni di età. Però quello che succede è che dal primo giorno in cui si è assunti si cominciano ad avere delle tutele contro il rischio di licenziamento senza giusta causa, che consistono in compensazioni monetarie che crescono nel tempo. Per esempio, nel disegno di legge depositato alla Camera e al Senato proponiamo che siano 5 giorni per ogni mese lavorato, quindi dopo 3 anni uno avrebbe diritto a 6 mesi nel caso di licenziamento senza giusta causa. Poi dopo il 3 anni, senza che ci sia alcun cambiamento nella tipologia contrattuale, cioè non c'è nessuna conversione, il contratto è quello lì, rimane quello, passano, il lavoratore ha delle tutele ancora più forti che sono quelle previste dall'attuale ordinamento, quindi è un modo per fidelizzare il lavoratore, per dare la possibilità al datore di lavoro di valutare le competenze, le caratteristiche della persona che assume. C'è moltissima difficoltà per un datore di lavoro oggi nel valutare le persone, e anche per questo che, come i numeri che dava lei prima, ci sono certo tanti posti vacanti anche se c'è molta disoccupazione in Italia, ma in tutti i mercati del lavoro è così, perché il datore di lavoro ha bisogno di capire le competenze, di valutare la qualità dei candidati, quindi i primi 3 anni sono davvero decisivi per fare questo e anche per formare il dipendente. Io continuo a sentire dire, ah, ma gli imprenditori poi licenzieranno eccetera eccetera, l'imprenditore ha tutti gli interessi a trovare qualcuno che sia bravo a fare quel mestiere, si assume qualcuno perché ci crede, perché vuole sperare, ecco, però diamogli la possibilità di fare un investimento oggi, essendo assunti tutti i giovani, quelli anche con potenzialmente maggiore competenze, con un contratto a termine, vengono utilizzati come una specie di valvola di sfogo, appena le cose vanno male saranno i primi a essere licenziati, quindi il datore di lavoro non fa alcun investimento nella formazione dei propri dipendenti. Allora, grazie al professor Tito Boeri, all'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.